fatemi andare dalla mamma a prendere latte. Solo che io sento la radio ma non mi parla nessuno, è giusto? Stefano? Mi guardano i due. Stefano? Oh, buongiorno. Signora. Buongiorno. Insieme ad un altro. Stefano ci porta al cuore della mano, al palmo. Caspita. E coso che sono geloso. E se tu fai la brava io ti porto anche a fare un giretto. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ebbene sì, diamo una possibilità alla pace, give peace a chance. Oggi partiamo così, non è una puntata hippie, state tranquilli, non parliamo di pace così in senso astratto, anche se un po' con questi focolai anche di guerra qui vicino a noi forse ci sarebbe anche bisogno di focalizzarci un po' su questo concetto, però oggi parleremo di una pace molto concreta che ha a che fare con i denari. Ci riferiamo all'obbligo di negoziazione assistita in caso di risarcimento danni. Che cosa significa? Significa che due avvocati possono mettersi d'accordo fra loro e non serve una figura di un mediatore civile né tantomeno di un giudice. In quali casi, come funziona, con quali tempi e perché scegliere questo strumento che noi abbiamo a disposizione in via obbligatoria per certi settori proprio da ieri? A tutte queste domande oggi daremo una risposta nella prima parte di Cuore Denari. Voi intanto iniziate a dirci qualcosa di voi, apriamo subito il nostro numero verde, è l'800240024. Qual è stata quella volta in cui in un conflitto di vario tipo non siete proprio, anche se avreste voluto, non siete proprio riusciti ad arrivare ad un accordo? Raccontateci anche, se volete, delle questioni di cuore, ma ci interessano in particolar modo quelle di denari. Perché peraltro ci interessano quelle di cuore? Perché la negoziazione assistita si può seguire anche per divorziare dal proprio partner, l'hanno chiamato questo nuovo istituto, il divorzio facile, un po' per sintetizzare il concetto, ma oggi proprio un'inchiesta della stampa riporta come questo divorzio facile non piaccia troppo agli italiani e in verità costerebbe anche troppo. C'è anche la procedura diretta davanti ai sindaci, ma a quanto pare queste nuove modalità per sciogliere un matrimonio ancora non hanno troppa presa fra gli italiani. La conflittualità tra le principali cause di controversia ci sono anche, come sappiamo bene, gli incidenti stradali, anche quelli banali, che hanno conseguenze sul portafoglio, ma anche soprattutto spesso sulla salute. Forse la più colpita nei più diffusi e banali incidenti stradali è la nostra schiena, ma spesso non serve un incidente o un evento traumatico per farci venire mal di schiena. Intanto, certamente qualche tamponamento ci può provocare questo colpo di frusta che poi sentiamo ancora a lungo nelle conseguenze, ma a volte può bastare anche solo attività fisica svolte in modo continuativo. Pensate al campione di golf Tiger Woods, l'ex numero uno a questo punto del golf, e nonostante sia abituato a sforzarla praticamente sempre, con la sua di schiena ha chiesto il conto, un conto salato che ha portato allo stop del campione dopo solo 11 buche del Farmers Insurance Open e ha dovuto dire addio ad un importante torneo di San Diego. Ma la schiena, lo sappiamo bene, non chiede vendetta solo se la si usa spesso, può bastare anche un colpo d'aria, una borsa della spesa sollevata troppo velocemente, lo stare troppo a lungo in una stessa posizione, per esempio alla guida. Allora pensateci bene. Quanti di voi hanno sofferto o soffrono di mal di schiena? Dove sentite male? Nella zona lombare, in alto, vicino al collo? 800 24 00 24, per raccontarci i vostri dolori di schiena. Noi ne parleremo con i nostri esperti nella seconda parte della trasmissione. E te pareva la donna? A Moby Dick, ma perché te metti gli occhiali? Ma state zitta, Frascicone, ma come io sto andando tanto bella regolare, te che fa, mi inchiodi? E inchiodo sì, c'è star semaforo, tu guidi la cazzo le cane. Ma tu guarda che mi ha combinato sta pagottara. Ma di che, amore, ma se manco te l'ho toccato sto cagatore di macchina. Modena, perché se parlavo dei cessi allora stavo a parlare di te. Ma come te permetti, a pecoraro, a caffone. Pecoraro a me, ma te vedi che se te metti le brelle pare Giuliano Ferrara. Ma vedi annate, una broccola e ma fallo finire che se no t'addopo. Ma fammi ammazzata, te chi tu dice, ma tu guarda sta budellona sul mollo da crisi dei nervi. Una sintesi molto efficace di come gli italiani non è che siano proprio un popolo conciliante, soprattutto se sono alla guida della propria automobile. Sono proprio quelli frangenti in cui il nostro nervosismo, non so che cosa succeda, dà il peggio di sé. Ma pensiamo anche, non so, alle riunioni di condominio, a tante questioni di soldi in famiglia. Ci sono molte liti che, oltre ad essere emotivamente pesanti, lo sono anche dal punto di vista economico. Allora, se in questo momento della vostra vita state affrontando una causa di qualunque tipo, ma che potete quantificare dal punto di vista economico e che sia di importo inferiore a 50.000 euro, sappiate che prima di arrivare in tribunale, da ieri c'è un'altra strada che in alcuni casi è obbligatoria, un'altra strada che si può percorrere, si chiama negoziazione assistita. Oggi ci spiega come funziona l'avvocato Nicola Soldati, che è anche un esperto di questi argomenti per il Sole 24 Ore e oltre che un amico di Cuore Denari. Buongiorno avvocato e bentornato. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, rinnovo l'invito a chiamarci e a scriverci anche ai nostri ascoltatori per raccontarci di quella volta in cui, anche se avreste voluto, non siete riusciti a mettervi d'accordo con qualcuno. In quale situazione vi è successo? Automobile? Condominio? Questioni di soldi in famiglia, come vi siete comportati, chi alla fine ha dovuto decidere, siete finiti in tribunale, 800 24 00 24, oppure avete anche tentato queste strade alternative perché ne avete sentito parlare, volevate un po' velocizzare le operazioni e alla fine invece anche queste si sono rivelate strade un po' complicate da percorrere. Potete usare il nostro numero verde per i vostri racconti, per le vostre domande in diretta, ma potete anche scriverci al 349 238 6666 su Facebook, su Twitter, dove volete. Avvocato, prima di arrivare al punto chiave, ovvero in quali casi si applica questa negoziazione assistita, dobbiamo capire bene di che cosa stiamo parlando. Ci può dare una definizione di questo nuovo strumento per farla molto semplice? Io la semplifico, mi dica lei se ho fatto il percorso giusto. Quando due parti non sono d'accordo, sono i due legali che si mettono d'accordo appunto per le due parti su una soluzione e poi la cosa finisce lì, non deve essere coinvolto più nessun altro? Allora, la negoziazione assistita consiste nell'accordo, che è chiamato convenzione di negoziazione, tramite il quale le parti in lite convengono di cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati che devono essere regolarmente iscritti all'albo oppure fare parte dell'albo delle pubbliche amministrazioni. La convenzione deve essere redatta appena di nullità in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'ortografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale. E quindi insomma si può delegare completamente questa rite agli avvocati se la vedono tra di loro. A che punto di questa, poi chiamiamola così, un po' trattativa avvocato Soldati, le parti coinvolte devono essere ricoinvolte di nuovo? Ma le parti sono coinvolte fin dall'inizio, in quanto la necessità, soprattutto nelle materie obbligatorie, di coinvolgere un avvocato vede il suo ruolo fin dall'inizio, poiché sarà l'avvocato a dover inviare questo invito alla controparte. Avvocato, tutto questo immagino ancora nell'ottica di snellire sempre di più il lavoro dei tribunali, non grandissimo obiettivo che ha il nostro sistema paese, che a quanto pare fa molta fatica a raggiungere. Proprio per questo motivo poi rifaremo un po' un elenco. Negli ultimi anni sono stati introdotti diversi meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, ma insomma lei, anche dal suo punto di vista, cosa può raccontarci? Il lavoro nei tribunali si è alleggerito oppure si sono raggiunti pochi risultati in questo senso? Beh, per quanto riguarda la negoziazione, diciamo, essendo stata introdotta come obbligatoria da ieri, i tempi sono ancora prematuri per dire se per qualcosa potrà servire per snellire l'attività dei tribunali. Sicuramente questo era l'auspicio dei redattori della riforma. Gli altri strumenti come la mediazione, invece, i risultati positivi si sono sicuramente visti. La riforma a cui si riferisce, avvocato, è quella del processo civile del 2009? Esattamente, abbiamo avuto varie riforme, prima quella che ha riguardato la mediazione obbligatoria nel 2010 e poi da ultimo questa che riguarda la negoziazione assistita. Che è stata introdotta nel decreto del fare? La mediazione è stata reintrodotta come obbligatoria nel decreto del fare, mentre la negoziazione assistita è stata introdotta quest'estate con il decreto giustizia. Allora, tanto per chiamare le cose con il nome corretto, mediazione, allora tutto è ricompreso sotto quel gruppone generico appunto che ho definito prima, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, ma se dovessimo proprio distinguere i due mondi, che differenza c'è, avvocato Soldati, fra la mediazione, quella introdotta con la riforma del processo civile, e il nuovo step obbligatorio da ieri per certi settori, che è la negoziazione assistita? Ma la differenza principale è costituita nella negoziazione assistita dall'assenza del mediatore e dal fatto che la procedura si svolge al di fuori degli organismi di mediazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia. Quindi sostanzialmente nella negoziazione assistita non esiste la figura del mediatore. Esatto. 800240024, il numero verde per le vostre domande, numero verde che ha usato invece un mediatore civile, che noi invitiamo molto volentieri a raccontarci le sue considerazioni su questo argomento. Paolo da Roma, benvenuto, buongiorno, eccoci qua a lei. Buongiorno, un caro saluto a tutti voi della redazione. Grazie, e anche Paolo, all'avvocato in studio, buongiorno. Dunque, io sono un commercialista, sì, e nel 2010, a seguito dell'introduzione della mediazione civile obbligatoria, che vorrei ricordare aveva la finalità di andare a tentare di risolvere la grande massa delle cause civili che affliggono i nostri tribunali, in particolare i comparti assicurativi, condominiali. Esatto. Quindi cause di modestissimo valore. Ma di alta conflittualità, quelle che scatenano veramente il peggio di noi, ma che poi in realtà per importo economico dovrebbero essere risolte in poco, no? E che se, se questo nostro sistema giudiziario riuscisse in qualche modo a risolvere, a incanalare in altri modi, al di fuori dei tribunali, risolverebbe, credo, l'avvocato mi potrà dare conferma, credo il 70% delle cause civili. Quindi il sistema civile è ingolfato di questa tipologia di cause. E nel 2010 fu introdotta la mediazione civile, che era affidata ad una figura che non necessariamente era dotata di requisiti tecnico-professionali specifici, ma che andava a riflettere più un ambito psicologico delle parti contendenti, quindi cercava di risolvere il conflitto prescindendo dagli strumenti tipici del diritto e cercando di cogliere, e guardi come si veste bene rispetto a quella tipologia di cause, in particolare quelle condominiali, no? Cercava di risolvere la controversia proprio sul piano delicato. Esatto. Paolo, abbiamo capito che lei è molto ben preparato, insomma, in sostanza nella sua esperienza concreta che cosa è successo? L'hanno mai coinvolta come mediatore? Insomma, quante cause, tra virgolette, si è trovato a dirimere e, con questa nuova procedura? Assolutamente no, la mediazione civile è stata fortemente osteggiata, soprattutto dal mondo degli avvocati, e non credo che l'avvocato in studio mi potrà dar torto, che vedevano oggettivamente sottrarre un serbatoio di udienze e di clientela assolutamente importante. E questo che è stato il nuovo passo in andare verso la negoziazione assistita è, rispetto anche all'esperienza occidentale, penso soprattutto al mondo occidentale anglosassone, che utilizza comunemente la mediazione civile, assolutamente un passo indietro. Gli avvocati hanno considerato, questa è la mia esperienza, la mediazione civile prima e temo anche la negoziazione assistita poi, come un mero passo procedurale che poi si dipana comunque naturalmente nella causa. Paolo, la ringrazio. Allora, conosciamo molto bene le prese di posizione molto dure che il mondo legale ha avuto nei confronti di questi nuovi strumenti. L'avvocato Soldati lo conosce talmente bene questo mondo che forse non appartiene invece a quel evidentemente nucleo di chi ha osteggiato, anche se magari solo concettualmente, questi nuovi nuovi istituti. È anche vero che, secondo me, un apparato legale può far poco se c'è una coscienza civile adeguatamente diffusa fra i cittadini, che magari si mette a studiare in maniera approfondita queste novità nel momento in cui ha un conflitto di qualunque tipo, che percepisce possa essere risolto secondo queste nuove modalità, per l'appunto le sperimenta. Se poi invece siamo sempre, mi viene da dire un termine marchigiano, dei cagnaroli e non ne vogliamo sentir parlare, di qualcuno che medi per noi, di una risoluzione appunto alternativa alla controversia della quale siamo protagonisti, beh, allora qualche volta è anche un po' colpa nostra, per cui qua poi possiamo arrabbiarci con i legali. Se voglio risolvere una cosa velocemente dall'avvocato non ci vado, non c'è nessun avvocato che si può mettere di traverso. Quindi gli avvocati fanno quello che devono fare, rispetto a queste novità hanno detto quello che pensavano. Avvocato Soldati, non so se l'ho presa troppo alla larga, però forse dipende anche un po' da noi cittadini, no? Ma cercare di cogliere queste opportunità. Ritengo che principalmente il problema sia di natura culturale, come abbiamo sentito appunto anche dallo spezzone prima. Ecco, esatto. Non c'è, come possiamo dire, quel fair play o quella necessità di risolvere a mente fredda determinate problematiche. È chiaro che in un sinistro stradale le situazioni sono particolari, però in generale quello che veramente manca nel nostro paese è la cultura. Vorrei però evidenziare una cosa, che non tutta l'avvocatura ha osteggiato la mediazione, ma solo una parte dell'avvocatura si è messa, diciamo, tendenzialmente di traverso rispetto a questo strumento. In realtà poi la sentenza della Corte Costituzionale, l'intervento successivo del decreto del fare hanno ristabilito quello che era il testo originario della mediazione, dando un ruolo ancora più forte agli avvocati, sia nella procedura di mediazione che nella procedura di negoziazione assistita, perché, come ho ricordato in precedenza, si passa necessariamente per dalla forza. Presenza di un avvocato. Quindi, diciamo, quell'estromissione tentata dalla mediazione obbligatoria è stata bypassata tranquillamente dalla negoziazione assistita, che vede invece proprio negli avvocati dei grandi protagonisti per tentare di arginare ogni tipo di contenzioso. Le faccio sentire il caso, avvocato Soldati, di Massimiliano da Roma, che ci introduce l'argomento al quale volevamo arrivare proprio stamattina, perché questa negoziazione assistita diventa obbligatoria per certi conflitti legati proprio al settore automobilistico / assicurativo. Vediamo allora se Massimiliano può risolvere questo caso secondo le nuove strade. Massimiliano, benvenuto. Buongiorno. Eccoci a lei. Dunque, vi racconto il mio caso brevemente. Grazie. 16 dicembre 2010 ho un incidente, vengo investito da un signore senza patente e senza assicurazione, ma insomma questo è un altro tipo di problema. E il mio avvocato contatta questa assicurazione che risarcisce le vittime della strada per ben, credo, 5, 6, 7 volte, adesso non lo so. Questa assicurazione gli richiede lo stesso documento, cioè il verbale della polizia. Prende tempo? Municipale. Okay. Sì, e dopodiché questo avvocato mi chiama e mi dice: guardi, io non so più che cosa fare, perché dopo la quinta volta che mi richiedono lo stesso documento, io pensavo di fare causa. Possiamo fare subito una bella cosa, Massimiliano? Ci dica il nome dell'assicurazione, perché poi quando questi, come dire, vengono messi un po' alla berlina, così... Non è un'assicurazione, ecco. Cioè, io sono allora... investito da uno senza patente, per cui a questo... questo il veicolo non era assicurato, ecco. Esatto, non era assicurato. Senza e allora quale assicurazione vi siete rivolti, mi scusi, ecco, con chi state rivendicando? C'è un fondo vittime della strada. Ah, ma allora è un'altra cosa, è la Consap ed è tutto un altro... Massimiliano, non voglio interromperla brutalmente, temo proprio che il tema di questa mattina non sia, nella strada appunto che stiamo indicando stamattina, sia applicabile al suo caso, avvocato Soldati, qua quale negoziazione assistita, di là non si trova neanche un interlocutore, però non è l'assicurazione della quale sta parlando Massimiliano. Il fondo di risarcimento delle vittime della strada è gestito dallo Stato, dal Ministero dell'Economia, tramite questa istituzione che si chiama Consap, ed è tutto un altro paio di maniche. Assolutamente sì, direi. Quindi Massimiliano ci scriva, magari ci rivolgiamo noi stessi alla Consap, perché li conosciamo molto bene, sono gli stessi soggetti che gestiscono il fondo di solidarietà per i mutui, per le persone che perdono il lavoro, per cui possiamo trovare noi un modo per dialogare con queste persone. In tutto questo sono già le 11:29, vedo che quando ci si diverte il tempo vola, per cui posso andare già, se Filippo è d'accordo, ai mercati, poi sentiremo Lorenzo dalla provincia di Vicenza e continueremo ancora con il nostro avvocato Nicola Soldati a capire un po' meglio come funziona questa negoziazione assistita obbligatoria per certi campi da ieri, e poi magari prendendo anche un po' spunto il mondo assicurativo che ci ha lanciato l'ascoltatore poco fa, cercheremo di capire lì in quali casi si può intraprendere questo percorso per risolvere un conflitto che si è scatenato proprio sulla strada. Cuore e denari. Si è soliti tradurre il compito del capo dello Stato nel ruolo di un arbitro, di garante della Costituzione. È un'immagine efficace. All'arbitro compete la puntuale applicazione delle regole. L'arbitro deve essere e sarà imparziale. È riconosciuto da tutti come un uomo con la schiena dritta, ma chissà se anche lui non abbia mai sofferto di colpo della strega, mal di schiena, torcicollo e quant'altro. Avete indovinato di chi stiamo parlando? L'avete sentito, ricorderete il suo discorso. È il neopresidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un uomo lontano da gesti clamorosi, da uno stile troppo chiassoso, insomma un uomo che si può proprio definire tutto d'un pezzo. E chissà se con tutti gli impegni e le preoccupazioni che dovrà affrontare da questi primi giorni in avanti non ne risentirà, speriamo di no, per lui anche la sua cervicale. Spesso infatti i dolori che colpiscono la nostra schiena non dipendono solo da cause fisiche, ma possono essere dati anche da stress, ansie e preoccupazioni che si concentrano tutte lì, nella contrattura dei muscoli, nell'area del collo, sulle spalle. 800 24 00 24 per raccontarci se anche a voi capita di sentire lo stress tutto sulle vostre spalle e sulla vostra schiena. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei presidente questa volta. Già. Allora, dichiaro aperta la seduta! Insomma, non chiude mai l'ascensore! Lei è un moroso! Lei è un cornuto! No, lei deve ancora tirare! Eccole! Uno! Due! Tre! Un classico delle nostre trasmissioni, siamo ritornati in diretta sul tema della negoziazione assistita. Chissà se anche per le beghe condominiali vale questo nuovo strumento di cui stiamo parlando con l'avvocato Nicola Soldati, esperto per il Sole 24 Ore, che è sempre con noi. C'è un ascoltatore che intanto mi scrive all'indirizzo di posta cuoredenari@radio24.it precisando questo tema che io onestamente non conoscevo, ma è ovvio che ci documenteremo bene. Nel caso di un intervento della Consap c'è sempre un'assicurazione a gestire il sinistro, la negoziazione assistita si applica anche in questo caso. Angelo, la ringrazio per avercelo scritta. Adesso naturalmente andremo a fare tutte le verifiche del caso e eventualmente risentiremo anche l'ascoltatore che prima ci ha parlato del suo caso un po' complesso. Andrei però, avvocato Soldati, a quelli più semplici, perché la negoziazione assistita o in seconda istanza la mediazione civile vorrebbero tentare di risolvere casi un po' più semplici, no? Tornando alle, come dire, rogne stradali, in caso di incidente ci può fare proprio un esempio su come questa negoziazione assistita può essere intrapresa, allora ammettendo di aver avuto chiaramente un incidente in cui il danno sulla nostra auto è di importo inferiore ai 50.000 euro, se no avremmo qua, cioè veramente la navicella spaziale, è ovvio che i danni economici sono sempre un po' inferiori. Cosa dobbiamo fare? Ci dia proprio passo per passo quello che dobbiamo fare. Allora, la normativa impone al danneggiato, tramite il suo avvocato, di inviare all'altra parte un invito, quindi l'altra parte intendiamo l'assicurazione, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Tall'invito deve essere sottoscritto dalla parte e dal legale, deve indicare l'oggetto della controversia e l'avvertimento che in caso di mancata risposta entro 30 giorni oppure di rifiuto, ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell'addebito sulle spese, condanna al risarcimento perita temeraria e quindi le conseguenze che sono tipiche per la mancata adesione a questo tipo di procedura. Avvocato, la interrompo subito, questa convenzione di negoziazione assistita che viene proposta dalla parte lesa, immagino, però conterrà anche una quantificazione del danno possibile, no? E chi l'ha fatta questa quantificazione? Sarà già nel frattempo intervenuto, non so, un perito, o si fa unilateralmente, perché io stabilisco che la mia auto è stata danneggiata per 2000 euro, ma l'altra parte vorrà verificarlo. Assolutamente sì, allora o il danneggiato è già in mano di una perizia che sia in grado di quantificare il danno, oppure altrimenti di solito accade che sia l'assicurazione ad inviare un perito in modo che ci sia già una quantificazione del danno in sede di negoziazione. Dobbiamo però ricordare anche che esiste un'altra procedura prevista dal codice delle assicurazioni e che prevede uno spatium deliberandi da parte della compagnia di assicurazione di 60 giorni oppure 90 se ci sono lesioni fisiche per formulare una proposta. Queste due procedure di indennizzo da codice dell'assicurazione e questa da negoziazione assistita, dato che non sono disciplinate l'una con l'altra e collegate, possono essere portate avanti separatamente, ma contestualmente potrebbero trovarci nella realtà di fronte a qualche problema applicativo pratico. No, tra l'altro è interessante anche l'aspetto che, se non ho capito male, dunque la negoziazione assistita può essere portata avanti anche nel caso in cui a seguito di un incidente una delle due parti abbia subito delle lesioni fisiche, perché io pensavo che per esempio per un danno di carattere biologico non fosse possibile. No, abbiamo anche il riferimento, anche perché abbiamo l'indicazione che ci viene direttamente dalla normativa e quindi ci parla di risarcimento per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme purché non eccedenti i 50.000 euro. Chiarissimo. E che non siano soggette alla mediazione obbligatoria. Quindi allora, ricomprendono sia danni fisici che materiali. Quindi praticamente si apre questa possibilità, tra virgolette, di accordo che viene gestito dai due legali che tentano di firmare questa convenzione di negoziazione assistita. In che tempi deve chiudersi l'accordo, chiamiamolo così, avvocato? Certo, allora una volta inviato l'invito, l'altra parte ha un termine per accettare la proposta, che sono 10 giorni. Dopodiché, se questo invito non viene accolto, c'è la possibilità per il danneggiato di agire direttamente in giudizio, essendo ritenuto fallito il tentativo di negoziazione. Però, insomma, la negoziazione viene accettata dalla controparte, si deve concludere nel giro di 3 mesi o, su accordo delle parti, può essere prorogata di ulteriori 30 giorni. Quindi però le parti devono mettersi d'accordo. Sentiamo un po' che cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Come dire, a parole, tutte le volte che abbiamo parlato anche di conciliazione, oltre che di mediazione civile, insomma, a parole sembra sempre tutto molto semplice e ci sembrano sempre tutte indicazioni di buon senso quelle che ci danno i nostri esperti, poi non si capisce perché tutti questi strumenti non riescono mai a funzionare come dovrebbero. Proprio infatti leggete anche con attenzione l'inchiesta, come vi dicevo prima, della Stampa sul divorzio facile, sulla negoziazione assistita prevista dalla legge, ricordo i termini, 162 dello scorso anno, per i divorzi consensuali, laddove non ci sia nessun tipo di conflittualità, dove non ci sono minori di mezzo, però pare che sia proprio un flop, dati alla mano che sono stati forniti dalle città di Torino, Roma, Milano e Genova. Sostanzialmente la conciliazione, appunto, cogestita dagli avvocati, è stata richiesta da, su queste città, pochissime coppie. Ritorniamo però alle auto. Vorrei sentire Rolando da Pistoia. Buongiorno Rolando, titolare di una carrozzeria. Buongiorno, sono titolare di una carrozzeria qui a Pistoia e volevo dire una cosa. Secondo me questa negoziazione assistita non fa altro che far perdere altro tempo ai carrozzieri. Certo. Mi spiego meglio. Sì. I carrozzieri lavorano con cessione di credito, quindi il cliente se ne lava le mani e ci pensa tutto il carrozziere per la riscossione. Quando capita un contenzioso, e spesso sono la media 1 su 15, 1 su 10, 1 su 13, certo, dipende, io faccio fare citazione direttamente al mio legale e in questo modo, in un tempo ragionevole, ho risposta dalla compagnia per accordarsi nel 95% dei casi, perché sennò non farei citazione se non fossi sicuro di quello a cui vado incontro, o altrimenti vado in causa e la riscuoterò. Vabbè, questo non sarebbe un problema, perché nel 95% dei casi, come dicevo prima, l'ha riscuoto prima della causa. Con la negoziazione assistita si allungano soltanto i tempi, perché in questo modo tutte le assicurazioni tendono a fare la negoziazione assistita e noi perdiamo altri 2 mesi per questa cosa, e poi comunque sia si conclude sempre nell'iter iniziale che le stavo dicendo ora. In questo modo secondo me ne traggono vantaggio soltanto le assicurazioni, come sempre. E allora qua abbiamo diverse correnti di pensiero, Rolando. Naturalmente molti ascoltatori ci scrivono: eccolo qua, un altro regalo agli avvocati. Il mediatore iniziale ci ha scritto: hanno fatto funzionare la mediazione civile perché gli avvocati si sono messi di traverso, qua è il regalo alle assicurazioni. Purtroppo non siamo mai contenti di nulla, però insomma prendiamo atto anche delle contestazioni nel mondo delle carrozzerie, che poi si trovano in ballo a questi conflitti, il loro lavoro, sistemano le macchine e poi vengono pagati mai, praticamente solo con grandissimi ritardi. Sento l'ultimo caso, che è quello di Lorenzo dalla provincia di Vicenza, rispondiamo con l'avvocato Soldati, ma vedo che il tema mi fa piacere, vi ha sensibilizzato e scaldato molto, e magari ci torneremo successivamente. Lorenzo, benvenuto. Buongiorno a tutti. La mia è una questione di eredità. Devo però precisare che l'ammontare degli immobili da dividere supera il valore di 50.000 euro considerevolmente. Tuttavia mia cognata, come vedova di mio fratello, dice che mi manderà questo invito tramite il suo avvocato a stipulare una convenzione di negoziazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2014 numero 132, convertito in legge 10 novembre 2014 numero 162. Benissimo, va bene, i termini di legge li conoscete perfettamente. E lei dice, Lorenzo, se siccome l'importo è superiore, se è corretto che sia stato invitato ad aderire a questa convenzione. Sì, anche perché io invece volevo rivolgermi ad una persona competente piuttosto che un avvocato che di immobili non capisce niente. Volevo il nostro geometra. Mi pare che già la sua presa di posizione non sia tanto da negoziazione. Lorenzo, devo sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, poi faccio rapidamente rispondere all'avvocato Soldati e poi andremo a tutte le problematiche, che anche di quelle che avete parlato questa mattina, che sono a volte talmente preoccupanti che si posizionano tutte sulla nostra schiena. Cuore e denari. La deve? Sinos, non riesco a vederti la faccia, mettiti seduto. Non mi posso sedere, la schiena mi fa un male cane. Il colpo della strega? Non lo so che cos'è, ma fa tanto male. E allora abbiamo reintrodotto con il nostro file il tema che approfondiremo fra pochissimi minuti con un amico di Cuore Denari, professor Stefano Respizzi, ma prima avevamo in sospeso la risposta da dare a Lorenzo dalla provincia di Vicenza, avvocato Soldati, se ce la facciamo fare una piccola consulenza in un minuto e mezzo. Abbiamo una questione ereditaria di importo superiore a 50.000 euro. Intanto mi chiedo, se le parti fossero completamente d'accordo, la convenzione per la negoziazione assistita si può eventualmente tentare anche in casi eccezionali, se le parti sono tutte d'accordo e se gli avvocati teoricamente avranno vita facile? Oppure la legge lo esclude? Sì. Ah, ecco, quindi ci sono delle deroghe. Sì. Nel senso che è obbligatoria nelle materie che abbiamo detto prima, circolazione, controversie fino a 50.000 euro, ma è facoltativa in tutte le altre materie, ad eccezione del lavoro e di conseguenza in una controversia ereditaria sicuramente la negoziazione assistita, che io definirei facoltativa, può essere utilizzata. L'unico problema è che se fallisce comunque dovrà essere tentata poi la mediazione obbligatoria successivamente, perché essendo una lite ereditaria questa sì che finisce sotto il blocco di procedibilità data dalla mediazione obbligatoria. Quindi a questo punto, sentendo che l'ascoltatore non è particolarmente fiducioso negli avvocati, ci converrebbe partire direttamente con una procedura di mediazione, bypassando la negoziazione e quindi avendo magari l'assistenza di soggetti che lui ritiene più preparati. Però da quello che capisco, in questo caso, per dire di no alla proposta lanciata dalla cognata deve in ogni caso avvalersi della consulenza di un avvocato per respingere questa proposta e dirgli: no, guarda, la negoziazione assistita non è la strada giusta per me, io vado avanti, vorrei andare avanti con la mediazione. oppure potrebbe anche semplicemente rispondere che ritiene più adatta l'utilizzo della mediazione, che nel caso di specie è obbligatoria, e presenta, essendoci una controversia, direttamente lui domanda di mediazione ad un organismo riconosciuto dal Ministero. Quindi lo può fare lui direttamente senza rivolgersi all'avvocato, visto che proprio Lorenzo non è tanto favorevole a far conto appunto sulla professionalità di questo tipo. Però, e invece una mediazione obbligatoria per legge dovrà comunque utilizzare l'assistenza di un avvocato. E invece noi Avvocato Soldati ci piace molto lei, per cui torneremo ad invitarla per così orientarci in questo mondo nuovo, tutto sommato, forse per questo che è ancora scarso successo e bisogna diffondere un po' di più questa cultura civile fra i nostri ascoltatori un po' litigiosi qualche volta. Grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi per l'invito. La dite? Sinus, non riesco a vederti la faccia, mettiti seduto. Non mi posso sedere, la schiena mi fa un male cane. Il colpo della strega? Non lo so che cos'è, ma fa tanto male. E l'abbiamo riproposto, il nostro file introduttivo del prossimo approfondimento. Allora, pensate alla vostra schiena, siete seduti in auto oppure ci state ascoltando in piedi. Non potete guardarvela, ma potete pensare, nel caso siate in auto o seduti alla scrivania, se sta bene aderendo allo schienale. Io sto seduta malissimo in questo momento, proprio in questo preciso istante accavallato le gambe, adesso sentiremo il nostro esperto se ho fatto bene. Oppure siete in piedi, magari vi sentite un po' ricurvi, state ben distendendo tutte le vertebre, insomma la casistica è molto ampia, fate mente locale e raccontateci all'800 24 0024 se avete mai sofferto di mal di schiena, d'altronde a chi non è mai capitato, e quali sono i rimedi che di solito mettete in pratica quando vi colpisce, a seconda chiaramente del problema. Per aiutarci a ritrovare la postura corretta alla guida e non solo, un amico di Cuore e Denari, il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno, buongiorno Deborah. Buongiorno dottore. Allora, io poi, lei mi conosce, le gambe lunghe, me le sono appena adesso accavallate sotto il tavolo perché stavo un po' più comoda, ma secondo lei fare una diretta radiofonica di un'ora e mezza seduta così va bene? Assolutamente no, lei mi conosce, anch'io sa che ho le gambe lunghe, esatto. Io mi sono messo con le gambe accavallate e mi stavo già pentendo. Però siamo rilassati evidentemente, no? Ci sentiamo a nostro agio a fare la trasmissione in questo modo perché siamo tra amici. Peraltro, prima così ho un po' introdotto tutte le varie tipologie di problemi che si possono scatenare alla guida, oltre a quelli appunto di conflittualità con chi magari un incidente ce lo provoca, ci rovina l'auto. Il tamponamento, il colpo di frusta, dottor Respizzi, come lo dobbiamo gestire? Dunque, il colpo di frusta è una delle cause più comuni di accesso in pronto soccorso. Ce ne sono tantissimi, naturalmente, ma la cosa molto importante è di non sottovalutare questo episodio, quindi di porre una diagnosi precisa, ma anche di non sopravvalutare questo episodio, nel senso che il colpo di frusta può essere di grave entità, ahimè, oppure di entità molto benigna. Questo è molto difficile da capire istantaneamente quando viene l'incidente automobilistico, perché il dolore può uscire esatto. il giorno dopo. E per non sapere né leggere né scrivere, molto spesso ci mettono subito sul collare, tanto esatto, per precauzione. Esatto. Comunque la precauzione prima è di recarsi in un pronto soccorso e di escludere che ci siano problematiche, perché la distorsione del rachide cervicale, parolaccia che serve a descrivere questa cosa che si chiama colpo di frusta, può essere piuttosto pericolosa e soprattutto può essere prolungata nel tempo se non ben curata. È una vera e propria distorsione, quindi è probabile che ci sia una lesione dei legamenti. E siccome il collo è molto mobile, si gira da tutte le parti, se c'è una distorsione, una lesione di legamenti, ci può essere poi come conseguenza negativa un'instabilità del collo, quindi non va sottovalutato. Certo. È vero che può anche non essere percepita nell'immediato, dottor Respizzi, magari uscire fuori due giorni dopo? Assolutamente, due giorni dopo forse un po' troppo, però al momento, quando c'è il trauma, ci si spaventa naturalmente, c'è una grossa scarica di adrenalina e questo e di endorfine, e questo seda molto il dolore, per cui uno al momento non se ne accorge, poi va a casa e alla sera comincia a sviluppare una rigidità del collo, magari dopo 7, 8 ore, 10 ore o addirittura fino al giorno dopo. Tutto ciò, se compare del dolore entro 12, ma al massimo 24 ore dall'evento, assolutamente pronto soccorso. Allora, 800 24 00 24, raccontateci del vostro ultimo colpo di frusta, poi parleremo anche di quello della strega per capirne le differenze, ma insomma così solo a sentirne parlare, anche se non sono l'esperta delle tematiche di cuore in questo programma, so bene che, come dire, è un problema che si colloca in una fascia più bassa della schiena dovuta ad altre circostanze e ad altre situazioni, ma voi intanto raccontateci insomma come avete gestito questi problemi quando si sono verificati anche nella nostra vita. C'è chi naturalmente fa il commento sulle assicurazioni, sappiamo molto bene quanto ci si giochi qualche volta un po' a sproposito su questo colpo di frusca, facendosi mettere il collare anche se magari non si avrebbe bisogno, e poi parliamo appunto di questi premi delle assicurazioni che lievitano a dismisura anche a causa appunto di questi comportamenti a volte non tanto corretti da parte nostra. Chiusa la parentesi, andiamo al colpo della strega, dottor Respizzi. Si irrigidiscono improvvisamente i muscoli lombari e noi siamo portati appunto proprio a piegarci in avanti. Le cause che possono scatenare questo blocco sono tantissime: la borsa della spesa, poi che cos'altro? Ma assolutamente, era uscito recentemente un articolo sulle cause di mal di schiena, si arrivava a 100 cause, quindi voglio dire c'è dentro veramente un po' di tutto, quindi è ancora molto più difficile. Il colpo della strega viene definito proprio così perché sembra un evento così violento, così fastidioso e invalidante che arriva istantaneamente magari facendo un gesto molto banale, non so, abbassarsi per raccogliere qualcosa piuttosto che alzarsi, uscire dall'auto, piuttosto che girarsi nel letto. Quindi questa curiosità significa semplicemente che il nostro organismo era evidentemente in un equilibrio di tipo precario e che un banale movimento, un banale sovraccarico manda in crisi questo equilibrio precario, creando un violentissimo spasmo della muscolatura lombare. E quindi è proprio un vero e proprio crampo, un qualcosa di estremamente intenso, estremamente invalidante, perché i muscoli sono bloccati e uno non riesce più a muoversi, certo. Rimane lì. Magari stava lavandosi i denti, questo è un altro classico esempio, e rimane lì bloccato sul lavello, incredibile, senza riuscire a finire quello che sta facendo. A questo punto che cosa succede? E quindi se è uno spasmo muscolare, se non ci sono altre cause violente, è semplicemente qualcosa da curare come spasmo muscolare, quindi non è una cosa pericolosa in sé. È estremamente dolorosa ed è difficile da gestire perché il paziente si trova totalmente invalidato. È impreparato, naturalmente. Ci sono delle circostanze in cui magari lo possiamo evitare, per esempio tipicamente la palestra, non mettiamoci subito lì a fare gli esercizi in 4 e 4, 8, almeno in quell'ambiente là riscaldiamoci un attimo, dottore Spizzi. Dunque, è chiaro che questi esempi che ho fatto sono proprio esempi in cui una persona è a freddo, evidentemente, sì. Lavarsi i denti, uno magari si è appena alzato, cose del genere. Quindi sicuramente se si frequenta una palestra, prima di fare esercizi per i muscoli lombari e dorsali bisogna fare un perfetto riscaldamento, bisogna fare prima una parte aerobica quando si arriva in palestra e poi progressivamente insegnare gli esercizi. Però che bisogna stare attenti a una cosa, l'utilizzo delle macchine in palestra, delle attrezzature di palestra non è così semplice, ci vuole un bravo istruttore, ci vuole qualcuno che ti insegni esattamente cosa fare con la tua schiena, perché noi spesso, visto che la maggior parte dei frequentatori sono dei sedentari che stanno tutto il giorno seduti alla scrivania, arriviamo in condizioni di forma decisamente precaria. Utilizzo di una squat, ad esempio, che significa mettersi una barra sulle spalle e fare delle flessioni. Conosco quell'esercizio terribile, tra l'altro. Ecco, l'utilizzo dello squat, dottore Spizzi? Io direi di no, assolutamente no. E lasciarlo semplicemente alle persone che invece hanno un'abitudine all'esercizio. Benissimo. Cuore e denari. C'ho un mal di schiena che non ho, mi fa dormire. Da ieri sera ce l'ho. Voglio morire. Bene, allora abbiamo visto come la nostra colonna, nonostante i vari dolori che possono prenderci nella zona più bassa, in quella centrale oppure su vicino al collo, sia un vero capolavoro di ingegneria, perché è elastica, mobile, ma al tempo stesso robusta, resistente, gliene facciamo passare di tutti i colori e qualche volta vi si concentrano anche tutti i nostri problemi di carattere emotivo, problemi che possono essere anche tutt'altro che propriamente fisici. Ci sono però dei veri e propri nemici che possono tenerla sempre in agguato e che vanno da una postura scorretta per chi passa ore e ore davanti al computer, a chi magari solleva un peso non indifferente, si può trattare di una valigia pesante, un vaso, una cassetta d'acqua, la borsa della spesa particolarmente piena, e in questi casi può anche non aiutarci appunto la forza delle gambe, ed ecco che qua scrac sentiamo un dolorino non male fino addirittura alla peggiore situazione nella quale naturalmente subiamo questo colpo della strega che abbiamo ben descritto nella prima parte del programma. Con noi questa mattina per illuminarci un po' su tutti questi problemi e soprattutto come li possiamo risolvere, un amico di Cuore Denari, il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Dottore, un ascoltatore ci scrive: non ci crederete mai, ma in seguito ad un tamponamento la mia cervicale è notevolmente migliorata. Salvatore aveva bisogno di un piccolo trauma al contrario, secondo lei ci sono addirittura dei casi paradossali in questo senso? Mi sembra abbastanza strano, evidentemente era semplicemente un po' bloccato e può essere che il colpo abbia creato un trust, abbia fatto un trust, quello che fanno gli osteopati e i chiropratici. Incredibile. Però direi che sono casi rari. Egidio invece ci scrive: per lavoro sono in auto tutto il giorno, allora come devo tenere questo schienale della poltrona dell'auto dritto, leggermente reclinato? Qualche volta mi capita di fare qualche piccolo movimento con la testa e di avvisare questo forte dolore, quasi uno strappo al collo. A cosa può essere dovuto? Dunque, come tenere sedile, lo schienale del sedile? Il consiglio che viene, che mi sembra più pratico per tutti, è di tenerlo piuttosto dritto, al contrario di quello che di solito si immagina, di assumere una posizione abbastanza vicina al volante, quindi non le braccia tese, di avere le ginocchia a circa 90 gradi e quindi una posizione molto più simile a quella di guida di un furgone o di un camion. Non è un caso che questi mezzi siano strutturati così, perché la gente ci sta su moltissime ore, quindi bisogna essere più vicini, verticalizzare lo schienale e stare abbastanza vicini al volante. All'inizio può sembrare una cosa un po' strana, un po' difficile anche da sopportare, ma poi ci si rende conto piano piano che invece funziona. Un altro piccolo trucco assolutamente da praticare per quanto riguarda lo schienale è avere un rinforzo a livello lombare, quindi dietro nella parte lombare, se il sedile dell'automobile è modificabile, avere una spinta che tenga curvata la schiena a livello lombare. Se il sedile non ha questa opzione, porta a mettersi un piccolo cuscinetto posteriormente alla schiena a livello lombare. Chiarissimo. Quindi stare in una posizione abbastanza fantoziana, ma insomma è quella che funziona. Però poi la schiena ringrazia, ecco, esatto. Quindi magari come di esteticamente non siamo proprio al massimo, però. Esatto. Per quello che diceva invece l'ascoltatore, cioè il fatto che il dolorino che arriva ogni tanto, questi sono dei piccoli spasmi della muscolatura che sono un indice di scarsa muscolatura, qualità della muscolatura. Quindi io consiglierei l'ascoltatore di farsi vedere, di farsi prescrivere un programma riabilitativo della colonna. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, che ascoltiamo subito dopo aver letto gli sms. Andiamo subito alla vostra viva voce. Raffaele da Napoli aspetta da un pochino, lo ringraziamo per aver ascoltato il radiogiornale con noi. Raffaele, benvenuto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ci dica. Niente, io ho praticamente questo dolore alla schiena praticamente quasi da sempre, ma negli ultimi 3 anni, nonostante io abbia usato tutti questi accorgimenti che il dottore poc'anzi diceva, peggioro sempre di più. Addirittura la mattina, se non faccio la doccia bollente, praticamente non riesco proprio per niente a camminare. In più c'è questo problema L4, L5, L5, L6 che mi è stato diagnosticato facendo una TAC, ho fatto terapia, ma la cosa più assurda è che l'ultimo cuore che io ho, mi sono fatto visitare, mi ha detto: stai lontano dagli ortopedici. Questo mi ha messo un po' in ansia. Mi sembra un giudizio un po' drastico e non tanto professionale, intanto. Detto questo, Raffaele, aspetti lì, vediamo se il dottore Spizzi ha bisogno di qualche informazione. Intanto, parlando, dottore Spizzi, di L4, L5, L6, Raffaele ha nominato alcune vertebre. giusto? Esatto, neanche inventata una, perché le sei non esiste, quindi è fantastico. Raffaele, vedi, allora che se, evidentemente si è rivolta al professionista sbagliato. No. Detto questo, insomma, lui continua a peggiorare. Non ha raccontato, Raffaele, io lo vedo nelle anticipazioni del suo intervento, che però corre, Raffaele, molto, mi sbaglio? Sì, ma mi hanno detto di non andare più a correre, ho preso la bici. La bici non va bene, cioè io mi sento quasi handicappato adesso. Lei vorrebbe fare tanto sport e in realtà questa schiena le dice, sai che ti dico, tu invece non fai proprio un bel niente. Come risolviamo questo conflitto con la negoziazione assistita di prima, dottor Respizzi? Quanti anni ha Raffaele? Raffaele 53. 53. Allora, da quello che lei descrive, sembrerebbe trattarsi, adesso prima era una battuta, L6 non esiste, si chiama S1, è la prima vertebra sacrale, le vertebre lombari sono 5, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, poi si passa all'osso sacro S1, quindi non era un errore marchiano. Che cosa significa questo che ci ha raccontato Raffaele in questo momento? Che molto probabilmente, ma ovviamente dovrei visitarlo, non è stato fatto un lavoro specifico cosiddetto di core stability, che è un termine anglosassone che significa migliorare la forza e l'elasticità dei muscoli addominali, dorsali, lombari e glutei, per fare in modo che il suo organismo, la sua colonna, regga bene i sovraccarichi, ai quali lui la sottopone andando a correre. Certo. La corsa è qualcosa di discretamente traumatico, perché per un uomo cinquantenne ogni balzo, ogni passo della corsa è un piccolo balzo e quindi una compressione sulla colonna. Per fare questo in sicurezza bisogna avere degli ottimi addominali, ottimi lombari, dorsali e glutei. Ecco, io ovviamente questo non so se l'ha fatto, quindi non basta fare delle terapie, bisogna preparare il fisico alla pratica che Raffaele gradisce. Questa faccenda della doccia calda del mattino altrimenti non riesce a muoversi, dottore Spitz. È proprio quello che mi fa sospettare che Raffaele non abbia degli ottimi muscoli, perché vuol dire che di notte i suoi muscoli si contraggono, hanno uno spasmo. Il caldo, che è una cosa fantastica naturalmente da questo punto di vista, rilassa la muscolatura, perché sennò lui è tutto bloccato, è tutto rigido. Certo. Quando succede questo di solito perché i muscoli non sono adeguati. Dottore Spizzi, lo raccontiamo sempre a Cuore Denari, l'inattività non fa bene al corpo, ma anche un'attività fisica fatta nella maniera sbagliata non giova. Il caso di Raffaele, secondo anche quello che lei ci ha detto, abbiamo ricostruito che potrebbe essere non appropriato appunto la tipologia di sport che lui fa, però sono tanti quelli che possono anche non portarci dei benefici, al contrario di quello che riteniamo. Il nuoto ci dicono che sia, lo dicono anche le mamme, soprattutto loro, che sia uno degli sport più completi, ma è veramente così? Quando il nuoto non va bene per la schiena, per esempio? Allora, il nuoto è totalmente sopravvalutato da un cinquantennio, da tutte le mamme d'Italia. Non è vero che è così fondamentale per la colonna, non è vero che faccia male, è uno sport che è discretamente neutro, per questo che va bene per tutto, perché si sta orizzontali, si galleggia e quindi la schiena non è tanto sollecitata. Sto parlando di non di nuoto agonistico, evidentemente, che è tutto un altro mondo. Quindi andare a nuotare fa bene, punto, fa bene perché ti muovi, ma non è così specifico per la colonna. Agendo appunto, come dicevo prima, in orizzontale non ci sono sollecitazioni pericolose, quindi tutti lo possono fare, a differenza della corsa che abbiamo citato prima. Quindi, detto che allora lei lo considera sopravvalutato, andiamo agli altri sport valutati correttamente ai fini di far star bene la nostra schiena, dottore Spizzi. Quali quelli sono? Che descrivevo prima, cioè il lavoro specifico fatto su addominali, dorsali e lombari, cosiddetta core stability, è una cosa molto funzionale che viene praticata nelle palestre se c'è un bravo istruttore. Oltre a questo, una tecnica che ormai è molto diffusa da almeno un quarantennio è quella delle famose back school. Sono state introdotte in Svezia, addirittura all'interno della Volvo, della fabbrica automobilistica, per prevenire il mal di schiena dei pazienti. Sono esercizi, ancora una volta, che vengono fatti per migliorare la qualità del controllo motorio a livello della colonna. Questa introduzione ha ridotto drasticamente le assenze dal lavoro degli operai della fabbrica automobilistica, quindi anche, vedi che anche la parte denari salta fuori. Bravissimo. Immediatamente, ha ridotto di molto l'incidenza delle assenze lavorative per mal di schiena. E quindi si è capito, si è valutato, si è misurato, la letteratura da questo punto di vista è molto ricca e anche i medici del lavoro sono stati molto coinvolti in questa cosa per ovvi motivi e quindi questo è molto utile. Le faccio un esempio nostro pratico qui in Humanitas, io lavoro da 15 anni col medico del lavoro, il medico competente, per i lavoratori che movimentano i carichi, infermieri, fisioterapisti, eccetera, quindi che spostano i pazienti. Esatto. Facendo un'attenta analisi dei pazienti, insegnando degli esercizi, anche noi abbiamo una bassa incidenza rispetto alla media di infortuni sul lavoro dal punto di vista della schiena. Molto interessante, dottore Spizzi. Le faccio però anche sentire come ha risolto il suo problema alla schiena, con quale tipologia di sport. Gianni da Firenze all'800 24 00 24. Gianni, benvenuto. Una disciplina che non abbiamo citato ancora. Cosa ha fatto? Buongiorno a tutti. Allora, io prima vi dico un attimo la mia esperienza. Sì. Io da sempre, io ho 51 anni, vado a cavallo. Salto ostacoli, ho fatto finché mi cadde un cavallo addosso una decina d'anni fa, ho avuto una frattura vertebrale all'L5. Da lì un calvario, sempre bloccata la schiena, sempre, insomma, stavo male. Io ho risolto, dopo varie tentativi ortopedici, mi ha appena in mente con il Pilates. Ma il Pilates ho fatto bene, perché a volte nelle palestre sono un po'... Io faccio true Pilates, ma veramente il Pilates mi ha rafforzato tutti quei muscoli che diceva prima il dottore prima. Io adesso ho ricominciato ad andare a cavallo, rifaccio viaggi a cavallo e sono... Non se ne faccia cadere un altro addosso, Gianni, mi raccomando. Spero di no. Va bene, grazie, grazie per la sua testimonianza. Però, dottore Spizzi, quello che lei diceva prima, anche per le altre discipline sportive, è chiaro che bisogna essere ben seguiti anche in palestra, perché noi pensiamo di andare lì. Io parlo per prima, no? Perché chiaramente la prima cosa che faccio quando vado in palestra è sgombrare intanto il cervello da tutta la fatica della giornata. Allora magari poi la qualità dell'esercizio passa in secondo piano. Invece, altro che, prima cosa, Pilates fatto bene, è importante per la schiena? Direi assolutamente di sì. Il Pilates, ancora una volta, è una tecnica che, se ben praticata, sviluppa quella citata core stability. Possiamo fare una puntata sulla core stability, mi sembra interessante. La suggerisco a Nicoletta non appena rientra, esatto. Anzi la saluto con un bacione. Esatto, tutta questa attività, Pilates, ce ne sono anche altre di tecniche, anche lo yoga in parte aiuta da questo punto di vista, aiutano a rendere più flessibile e più tonica la muscolatura di quella parte lì centrale del corpo, addominali, lombari e dorsali. Quindi questo obiettivo che ha raggiunto il nostro ascoltatore è stato possibile perché ha avuto un bravo istruttore di Pilates, ha fatto bene a mettere in evidenza questo, perché il Pilates adesso è molto di moda. Come tutte le cose molto di moda, vengono spesso anche praticate da istruttori che non sono molto ferrati, ci si può inventare di tutto in Italia, purtroppo anche su questo bisognerebbe che ci fossero delle normative un po' più precise su chi lavora nelle palestre, ma sappiamo che questo non è. E quindi bisogna essere molto attenti, e io capisco che per l'ascoltatore è difficilissimo individuare qual è l'istruttore bravo, perché infatti, non c'è una laurea, non c'è un diploma, dobbiamo fidarci, no? Ma se è fatto bene, il Pilates è una tecnica molto buona, dimostrato che funziona, e c'è anche da questo punto di vista una letteratura robusta che lo conferma da molti anni, quindi è importante trovare il bravo istruttore. Però anche all'interno delle palestre c'è un classico vecchio metodo, dottore Spizzi, che è quello del passaparola, no? Magari prima proprio di andare a parlare con la persona, sistemami la schiena, magari un attimo si può fare un giro fra gli altri, osservare chi è anche l'istruttore più gettonato, chi è quello che viene un po' lasciato da parte, e forse anche quello può dirci qualcosa. Ma lei, dottore Spizzi, un paziente a cui era cascato un cavallo addosso non era mai capitato? Beh, però ne ho visto delle robe stranine anch'io, indubbiamente un cavallo addosso direi che è meglio non farselo arrivare, evidentemente. Poi la frattura di L5 è una frattura molto impegnativa, molto brutta, ma questi traumi ci sono in casi del genere, traumi automobilistici, motociclistici soprattutto, quindi non è una cosa così infrequente, purtroppo. Per fortuna una frattura così bassa di solito non interessa il midollo, quindi non ci sono delle componenti gravi dal punto di vista neurologico. Dottore Spizzi, qualche volta quando viene il mal di schiena c'è chi è un po' proprio refrattario ad ogni tipo di dolore, e eccoti là che subito si prende l'antidolorifico, no? Ma non è sempre detto che una schiena che fa male sia una schiena ammalata. Spesso il male, come è venuto, passa. Come facciamo a riconoscere quello che ha bisogno di un intervento farmacologico? Allora, il dolore è un sintomo positivo. Questa è già la prima notizia, è una spia che ci dice che arriva una comunicazione che arriva dal nostro organismo, è un segno positivo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se questo dolore si risolve nel giro di qualche ora, al massimo un giorno, di solito è un dolore benigno che va e viene, come abbiamo detto prima. Se il dolore è persistente e dura per alcuni giorni, assolutamente sottoporsi a una visita accurata di una persona specialista. Prima c'è stata questa battuta infelice nei confronti degli ortopedici. E chi si occupa di schiena, in effetti, sono tre specialità: l'ortopedia, se fa chirurgia vertebrale, perché ormai sa che le super specialità ci portano ad essere molto settoriali, quindi un chirurgo di ginocchio, di schiena, evidentemente sa poco, e i neurochirurghi e poi i fisiatri. Quindi sono queste tre le tre figure che possono dare una risposta specialistica adeguata: chirurgo vertebrale ortopedico, neurochirurgo e fisiatra. Allora, la ringrazio per aver diplomaticamente aggirato anche il commento di prima, che naturalmente lascia il tempo che trova. Sentirei se ce la facciamo o non ce la facciamo. Purtroppo, Carmen, deviazione alla colonna dovuta ad una cattiva postura, utilizza un bustino, quanto è meglio che lo porti? Dottore Spizzi, come facciamo a valutarlo? Quanti anni ha Carmen? Carmen, quanti anni ha? 72. Un bacione, Carmen, dobbiamo salutarla. Dottore Spizzi? Sì. Quando metterlo? Metterlo quando fa degli sforzi, quando stira, 2 ore di stiro sopra il corsetto, se no puoi toglierlo. Benissimo. Dottore Spizzi, grazie per essere stato con noi, siamo già tutti meglio. Guardi, adesso mi sono già sgranchita, ho tolto l'accavallamento delle gambe, per cui ho preso atto di tutti i suggerimenti che ci ha dato oggi. E per il Pilates, naturalmente, anche lì, occhio ai buoni istruttori. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a Isotta Ascen, Marco Lombardo per l'aiuto in redazione di questi giorni, instancabili e tantissimo. Grazie a Filippo Oreggi, ci fermiamo, noi ci risentiamo domani, buona giornata a tutti.